9 in punto. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno. Innanzitutto permettetemi di farvi le mie scuse. Le mie scuse perché, per cosa? Per la puntata di ieri, non per gli ospiti, insomma, tutti ottimi, naturalmente i politici nello svolgere il loro ruolo, la loro parte, e Antonio Polito nel commentare la giornata di ieri, ma per le mie domande. Perché dovevamo fare una puntata sulle riforme e poi la sentenza Mediaset che riguardava Silvio Berlusconi ci ha fatto virare la puntata, presi da una certa frenesia di cronaca. Poi in realtà alla fine si vedono scorrere le agenzie, le notizie, le storie sono sempre le stesse: il PDL che attacca i giudici che si difendono, l'Associazione Nazionale Magistrati che si difende, il PDL che va in piazza, e sono tutti pezzi, se volete, questi, ma non solamente questi, ci sono pezzi che riguardano anche il centro-sinistra, di quella che oggi su il magazine del Sole 24 Ore, in edicola, il titolo di copertina è Rifare l'Italia senza rifare gli italiani, di quella che oggi Andrea Romano e Giuliano da Empoli, nel pezzo centrale di questo numero, descrivono come una sorta di scenografia, una scenografia nella quale sostanzialmente siamo imprigionati da una ventina d'anni, una scenografia dalla quale evidentemente dobbiamo uscire, dobbiamo metterci alle spalle tutto questo. Secondo mea culpa a questo punto, noi giornalisti contribuiamo naturalmente a creare questa scenografia. Siamo ad un bivio, questo paese è ad un bivio, a prescindere dalle contingenze politiche: una strada di declino o una strada di rinnovamento, di cambiamento, o addirittura, non so se sia peggio, una strada del vivacchiare, che in realtà sta vivendo un bel pezzo del paese, perché c'è un bel pezzo del paese che in questo momento sta vivacchiando, mentre c'è un pezzo del paese naturalmente che soffre, soffre ed è quasi schiacciato da questa crisi, che non è solamente una crisi economica. C'è anche un pezzo però che innova e che cresce. Dobbiamo forse uscire dalla mitologia di un paese normale e iniziare a costruire un paese nostro, aperte virgolette, mettiamola così, che è quello che sembrano suggerire Andrea Romano e Giuliano da Empoli, appunto, in questo pezzo. Da questo partiamo oggi. Rifare l'Italia, ma come? Ve lo chiediamo. Se volete telefonarci all'800 24 00 24, potete scrivere, già lo state facendo sulla nostra bacheca Facebook, www.facebook.com/9inpuntoradio24, oppure se volete su Twitter scrivete a me, Simone Spezia. Andrea Romano, deputato di Scelta Civica, buongiorno. Buongiorno a lei. Ed è anche direttore di Italia Futura, Cristian Rocca, direttore del Sole 24 Ore. Buongiorno Cristian. Buongiorno. Ci raggiungerà tra poco anche Luca Ricolfi. Allora, Romano, io ho subito da farle un'osservazione che faccio anche a Cristian Rocca e che riguarda proprio la copertina. In fondo gli scenografi di questa scenografia nella quale siamo immersi ce li siamo scelti noi, e quindi l'idea che trasmettete voi, no? Un ventennio perduto accompagnato dalla cantilena dolente che voleva gli italiani colpevoli e inadeguati, un po' di colpa e un po' di inadeguatezza, soprattutto nella scelta della classe dirigente, insomma, dobbiamo darcela, no? Assolutamente d'accordo con lei, ma è un punto che è, credo, saggiamente affrontato nel numero di Il, perché nel pezzo di Piperno, che posso dire è molto meglio del mio, almeno di quello, poi non so, da Empoli, non vorrei far arrabbiare Giuliano da Empoli, ma Piperno, così come gli altri autori hanno scritto degli articoli bellissimi, Piperno dice proprio questo, cioè il fatto che in fondo c'è una tendenza degli italiani a chiamarsi fuori, a non dire mai è anche un po' colpa nostra, ed è un punto importante in fondo di questa riflessione sul ventennio perduto, perché il ventennio perduto non è tutta colpa della politica, e questo numero di Il parte con questa fotografia molto bella, no, dell'imbandieramento dell'aula di Montecitorio in preparazione degli discorsi inaugurali di Giorgio Napolitano, che che è appunto una scena poi che nobilita, una fotografia che intende nobilitare il Parlamento e appunto le nostre istituzioni. Perché è così, in fondo non possiamo dare tutta la colpa alla politica, ai politici e anche a quelli che rendono la politica possibile, per esempio i funzionari della Camera. Io che sono un neo deputato, in fondo sto in Parlamento da poche settimane, mi sono già reso conto di come il lavoro di qualunque deputato è impossibile se non appoggiandosi a dei funzionari come quelli della Camera e del Senato, che sono davvero di straordinaria qualità. Poi per carità uno può discutere quanto si vuole. Già Romano, questo è interessante, perché noi ce la prendiamo sempre con la burocrazia da una parte e con la casta dall'altra, e poi non ci rendiamo conto che invece ci sono delle punte di eccellenza straordinarie. Insomma, se ai nostri ascoltatori è capitato di vedere una seduta della Camera, non è che il presidente di turno, che sia il presidente, nella fattispecie Laura Boldrini, o quello di turno, cioè il vicepresidente che abbiamo avuto ospite ieri, Luigi Di Maio, arrivino preparatissimi e sanno tutto delle procedure della Camera, e che c'è un servizio efficientissimo che li mette e vi mette in condizione di lavorare. Esattamente così, ma si tratta appunto di quelle competenze che hanno fatto grande l'Italia, che sono competenze di alto livello nelle funzioni pubbliche, come in questo caso, così come per esempio sono competenze imprenditoriali, aziendali. Noi nell'articolo scritto con Da Empoli facciamo due esempi di assoluta eccellenza italiana, che sono H-Farm, questo grande incubatore tecnologico fondato da Donadon, o per esempio Arduino, diretto da Massimo Banzi, che è questa all'avanguardia nelle cosiddette stampanti di terza generazione, no? Quelli che fanno gli oggetti in 3D. Ecco, uscire dal declino, uscire dal ventennio perduto vuol dire ritrovare, come dire, la centralità delle grandi eccellenze italiane, che sono eccellenze private e eccellenze pubbliche. Poi questo non è che ci esime dal criticare la burocrazia, che va criticata. Esistono burocrazie, come dire, sedute su se stesse, che non sono in grado di innovarsi, che fanno freno anche all'innovazione. Però c'è stato in questo ventennio una retorica del lamento, per cui l'Italia è in declino, e in fondo noi italiani, lo diciamo, è anche un elemento della nostra psicologia pubblica, un po' banalmente, indulgiamo un po' troppo alla lamentazione. Ecco, bisogna uscire da questa lamentazione e uscire, come dire, senza dare la colpa soltanto alla casta, alla politica, perché esistono anche, ma lo sanno i nostri ascoltatori perfettamente, anche nel settore privato esistono larghe fasce appunto che hanno, come dire, frenato l'innovazione, in fondo hanno scommesso sulla conservazione piuttosto che sull'innovazione. Le voglio fare un'altra domanda che poi girerò anche a Christian Rocca. Voi scrivete, tra le altre cose, che insomma la convinzione che la maggioranza degli italiani, di tutte le età, di tutti gli orientamenti politici e politici, voglia il cambiamento, ovvero lo testimoniano anche i messaggi che in questo momento ci stanno arrivando su Facebook. Per dire, il primo, che è riferito però generalmente alla classe politica, cancellando la vecchia classe politica, c'è chi ci scrive: con un governo, come si rifà l'Italia, con un governo a 5 stelle, e anche qua, insomma, questo approdo in Parlamento massiccio del Movimento 5 Stelle è sicuramente un segnale di volontà di cambiamento. Ma non c'è un po' di retorica, visto che di retorica parlava anche in questo, anche nel cambiamento a tutti i costi, insomma, senza poi, no, indicare quale sia davvero la strada di questo cambiamento, soprattutto partendo dal fatto che gli italiani non sono da rifare, insomma, almeno non completamente, sono da anche prendere così come sono e costruire un paese su quello che sono gli italiani. In questo ventennio c'è stata non solo una retorica del declino, ma anche una retorica secondo la quale in fondo bisognava cambiare la psicologia degli italiani, no? Che è una cosa poi un pochino totalitaria, mi lasci dire, cioè in fondo cambiare la testa della gente è un, per carità, può essere un progetto ambizioso, ma si può svolgere nell'arco di vari secoli. Dobbiamo partire da quello che sono gli italiani davvero. Gli italiani sono buoni e cattivi, sono appunto competenti e incompetenti. Lei mi parlava dei 5 Stelle, io li vedo tutti i giorni, li vedo in aula, li vedo in commissione, e io credo che, come dire, bisogna rendere un po' di giustizia a questi parlamentari dei 5 Stelle, che sono un po' anche vittima, loro sì, di una retorica del cambiamento traumatico, per cui appunto qualche settimana fa abbiamo visto che per 4.000 voti dati sulla rete a Rodotà sembrava che, come dire, tutta l'Italia volesse Rodotà Presidente della Repubblica, con grande rispetto di Rodotà. Appunto, poi il Parlamento, uno si trova di fronte a dei ragazzi o anche a persone meno giovani che vogliono poi mettere le mani, vogliono sporcarsi le mani, che non vuol dire sporcarsi le mani con la casta, ma vuol dire cambiare concretamente delle piccole cose, non tanto scommettere sull'apocalisse, appunto sull'apertura del Parlamento con la pescatole, si ricorda una delle immagini che furono usate dai grillini all'inizio. In realtà, una volta entrati in Parlamento, queste persone hanno anche delle buone idee, e io sono convinto che se si mettono a lavorare insieme agli altri possono anche, come dire, portare dei cambiamenti magari piccoli, piccoli, no, non rivoluzionari, però magari piccoli e importanti, ed è attraverso la somma di questi piccoli cambiamenti che però bisogna fare che si può uscire da questo ventennio perduto, perché davvero questo è stato un ventennio perduto che ha condannato l'Italia ad una situazione anche di gravissima sfiducia dalla quale dobbiamo uscire. Christian, mi sembra che con questo numero voi abbiate voluto comunque trasmettere un messaggio di fiducia. Citava un paio di casi Andrea Romano. L'altra sera ho avuto l'occasione, la possibilità di assistere in teatro a Vicenza, nell'ambito del Festival Città Impresa, alla premiazione di 1000 giovani con storie incredibili. Cioè, ci sono persone che sono ritornate dopo gli studi negli Stati Uniti e hanno fondato un'impresa qua ad altissima tecnologia, ci sono ragazzi che venendo da giurisprudenza, quindi tutt'altro ambito, hanno deciso di fondare un portale per la distribuzione di cibo a chilometri zero. Idee in circolo in realtà ce ne sono, qualche segnale positivo arriva, forse non abbastanza, non lo so, Christian. Ma sì, diciamo che il direttore di Il, Andrea Romano, ha già detto tutto sul numero ridicolo oggi e lo ringrazio. Ah, ecco, ecco, no, una cosa importantissima, perché io mi stavo dimenticando. Ieri, tra l'altro, avete vinto un premio, il premio Ferrari Copertina dell'anno per il Mensia. Adesso mi diranno stai facendo un'orrenda marchetta Il. No, però, questa è la notizia, come la sentenza Berlusconi che ti cambia e ti scombina la puntata, no? Il fatto che abbiamo vinto. No, davvero sono molto contento, abbiamo vinto il premio Copertina dell'anno peraltro per il mio primo numero uscito l'anno scorso, e insomma è stato molto emozionante quando hanno chiamato in The Winner Is, come agli Oscar al Kodak Theater di Los Angeles. È stato abbastanza emozionante, sì, è vero. E, no, tornando diciamo alla domanda, sì, diciamo il messaggio che abbiamo cercato di dare è certamente ottimista, e non è soltanto peraltro di questo numero. Ricordo che il numero subito precedente le elezioni abbiamo fatto tutta una roba sul 24, utilizzando il numero 24 per le ovvie ragioni, diciamo, aziendali, ragioni per cui l'Italia comunque ce la farà. Le elezioni non sono andate, diciamo, non hanno dato un esito, diciamo, come dire, di grandi prospettive, come abbiamo visto, però comunque ci sono le condizioni per cui l'Italia possa uscire da questo impasse, che, come hanno raccontato Andrea Romano e Giuliano D'Empoli in questo articolo, ma anche gli altri scrittori, appunto Alessandro Piperno, Camilla Baresani, Antonio Pascale e Francesco Pacifico, per uscire da tutto ciò. Ovviamente la situazione è quella che è, ma se non si mette da parte questo, se non si capisce davvero che non si può raddrizzare il legno storto degli italiani, ma bisogna semplicemente accettare per quello che chi siamo, accettarci per quello che siamo, è difficile riuscire a... Guardi, Enrico Letta nel discorso programmatico alla Camera ha detto una cosa interessante, si è sembrata un po' una roba un po' politicistica, ma non lo era. Ha detto in questa fase mettiamo da parte la politica e parliamo delle politiche. In inglese, in lingua anglosassone, c'è una parola diversa per indicare la politica, politicante per capirci, e le azioni di governo, le politiche per affrontare i temi della contemporaneità. Ecco, lui l'ha detto ovviamente perché è costretto a fare questo governo di coalizione, però è importante questo, mettere da parte la politica, anche noi giornalisti, anche nei talk show, e parlare delle cose da fare, perché gli innovatori, come dicono Romano e D'Empoli, ci sono, le idee ci sono, basta tirarle fuori e, come dire, e dimenticarci e quasi non ascoltare questo richiamo verso il buco nero della contrapposizione antropologica. Presento il prossimo ospite, speriamo che la presentazione vada bene. Allora, ha fatto tante di quelle analisi pessimistiche sullo stato del paese negli ultimi mesi e negli ultimi anni, che è stato quasi costretto a scrivere un libro su come se ne può uscire. Luca Ricolfi, docente di analisi dei dati all'Università di Torino ed editorialista della Stampa, buongiorno. Buongiorno. Il libro è La sfida, come destra e sinistra possono governare l'Italia, uscito da poco, immagino, Ricolfi, prima dell'accordo tra PD e PDL, e però la sostanza resta tutta. Sì, io l'ho scritto in realtà un paio di mesi fa, prima che tutto succedesse, diciamo. però penso anzi che forse sia ancora più attuale quello che ho scritto, perché immagino cosa potrebbero fare destra e sinistra se provassero a governare insieme, quindi ci siamo. Ci siamo, ecco, se ne esce da questo ventennio, perché la domanda ci stiamo facendo questa mattina, io capisco che possa sembrare generica, no? Però questo paese forse è da rifare e quindi mettersi alle spalle questo ventennio si deve. Se ne esce secondo lei? Ma guardi, io racconto rapidamente come sono andate le cose, perché altrimenti non si capisce la mia risposta. Io ho sempre fatto solo analisi, non ho mai fatto proposte, detesto abbastanza il ruolo di consigliere del principe o di grillo parlante. Ho fatto questo libro perché mi ero un po' stufato di sentirmi sempre dire che non ero costruttivo, quindi in questo libro ci sono delle proposte con cui io immagino che si possa sbloccare la situazione, proposte realistiche, non sono le cose che io vorrei, ma le cose che secondo me destra e sinistra potrebbero fare se usassero un po' di ragionevolezza e di buonsenso. Le cose che farei io sono ancora diverse da queste. Quindi io sono in qualche modo costretto a risponderle, ne usciremo, però questo libro è stato scritto prima che si formasse il governo Letta. Avendo visto all'opera questo governo nelle prime settimane, adesso un po' solo due, sono tornato ad essere quello che sono sempre stato, cioè un grande pessimista, perché penso che le condizioni per uscirne in realtà ci sarebbero per una ragione macroeconomica molto semplice, che noi abbiamo dei tali margini di miglioramento che dobbiamo soltanto sfruttarli. Le faccio un esempio. Noi abbiamo... Mi scusi Ricolfi, la interrompo un attimo perché abbiamo una pausa per la pubblicità, se no mi ammazzano se la mando troppo tardi, poi riprendiamo con lei e poi iniziamo a sentire qualche ascoltatore. 9 in punto. Nel frattempo sul tanto vituperato Twitter abbiamo lanciato l'hashtag Rifare l'Italia, ci scrive Andrea, recuperando i due pilastri della nostra storia, cultura della bellezza e manifattura innovativa. Paolo, Terranova, con un nuovo patto fisco-welfare, reddito minimo, nessuna cassa integrazione, meno tasse, lavoro impresa, più attenzione a rendite e nero. Insopportabile, scrive, cambiare l'articolo 1 della Costituzione con l'Italia è una repubblica fondata sulla meritocrazia. Allora riprendiamo da Ricolfi, che è tornato dunque al pessimismo, pur dicendo in realtà i margini ce li abbiamo perché si è messi talmente male che teoricamente si può solo risalire, più o meno, no? Se ho ben colto Ricolfi. Ricolfi? Vorrei fare un esempio sui margini. Prego. Noi abbiamo ad esempio almeno 80 miliardi di sprechi nella pubblica amministrazione, questo è un margine di miglioramento enorme, noi potremmo rifare lo Stato sociale, avere uno Stato sociale ricchissimo se solo eliminassimo questi sprechi. Perché nessun governo inizia dicendo ci sono 10 miliardi all'anno pagati a falsi invalidi, ne vorremmo recuperare 2, 3, 4? Diciamo 5 in 5 anni. Nessun governo ha il coraggio di dire questo, però le risorse si troverebbero se ci mettessimo su questa strada. Poi abbiamo margini dall'evasione fiscale. Noi possiamo recuperare non certamente 130 miliardi, perché in nessun paese del mondo l'evasione fiscale è zero, ma 40-50 miliardi in una legislatura si possono recuperare, però vanno messi a riduzione delle aliquote naturalmente. Cioè, i margini macroeconomici per cambiare drasticamente, paradossalmente li abbiamo più noi che altri paesi più efficienti. È come un'impresa, se un'impresa è piena di inefficienza, in una crisi può ristrutturarsi. Se un'impresa è già super efficiente e ha una crisi di domanda, ad esempio, non c'è niente da fare, non ha più margini. Quindi noi, il mio ottimismo deriva dal fatto che potremmo fare qualcosa. E che cosa? Io ho provato a scriverlo in questo libricino. Ma il mio pessimismo deriva dall'osservazione che un governo appena nato, la prima cosa che ha fatto è dilazionare la soluzione di un problema, Cioè, io sono molto ingenuo. Io quando si è formato il governo Letta pensavo, ma vuoi vedere, vuoi mettere, se non sono d'accordo almeno su 3-4 cose, su 3-4 segnali, possibile che l'IMU, che è stata la questione fondamentale della campagna elettorale, che sull'IMU non si siano messi d'accordo? E invece no, non erano d'accordo su niente. Hanno passato la prima settimana a formare il sottogoverno usando il manuale Cencelli delle correnti di questi nuovi partiti. Cioè, è una cosa sconcertante, demoralizzante. Quindi io sono tornato al mio vecchio registro di osservare le cose che succedono anziché immaginare che cosa potrebbe succedere. Sentiamo, iniziamo a sentire qualche ascoltatore. Vincenzo dalla provincia di Bari, buongiorno. Sì, buongiorno. Io sono nato ottimista e sono obbligato ad essere ottimista perché faccio l'imprenditore. Quindi mi sento dire all'estero che gli italiani, quando pensano di aver toccato il fondo, cominciano a scavare. Questo non è bello, perché noi italiani ci mettiamo molto zelo. Quindi assolutamente in disaccordo. Molto zelo a scavare, dice Vincenzo. Sto scherzando naturalmente. Prego. È bello anche scherzare, no? E ci mettiamo tanto impegno a tirarci fuori, perché non c'è mai nessuno che ci viene a salvare. Noi siamo condannati, abbiamo anche una funzione sociale noi imprenditori. Noi dobbiamo tenere in vita un tessuto di chi non ha voglia di fare l'imprenditore, di chi non è capace, per cui noi siamo quelli che veramente tengono in piedi l'Italia. E poi questo governo ad oggi, abbiamo votato, abbiamo fatto tutto quanto, un provvedimento che ci dia entusiasmo, che ci dia ottimismo, che ci dia la possibilità al mattino di avere voglia di andare a lavorare con maggiore vigore, con maggiore entusiasmo. Questo è quello che manca. Ma l'Italia come la rifarebbe lei? L'Italia come la rifarei? Punto primo, non mi sento in colpa per questa classe dirigente che abbiamo, è pessima, ma non l'ho scelta io vado a votare perché ho un dovere civico, ci metto solo una croce su di una scheda che mi viene data, li hanno scelti gli altri, io scelgo A piuttosto che B, solo per una mia ideologia, ma il signor Tizio e il signor Caio non l'ho certamente scelto io, l'ha scelto qualche altro per me, ma non per fare il comodo, no, per carità, cioè non per aiutare l'Italia, ma per fare il comodo di qualcuno. Questo è importante. Vincenzo mi ha fatto un po' il politico, nel senso non mi ha risposto direttamente alla domanda. Sentiamo se invece lo fa Carlo da Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno. Ma senta, io onestamente, sono onestà che non mi ci trovo più in questa situazione di personaggi che vediamo a amministrarci anche alla politica, al Parlamento, eccetera. Ho visto che degli scarti delle regioni oggi si trovano in Parlamento. Troviamo una presidente, l'ex presidente, che praticamente si aggrappa a tutti, anche quello dell'IMU, pur di farsi pubblicità, tanto non sono soldi suoi. Poi magari lui pochi mesi fa diceva che era tutto a posto, andava tutto bene, oggi nessuno più si ricorda di questo, quando dopo 20 anni di disastri che ha fatto, oggi ha portato l'Italia in una condizione così. Oggi c'è ancora qualcuno che lo vota, ma io credo si debbano vergognare. Piccolo richiamo a lei e a tutti, usciamo dalla lamentazio, come diceva Andrea Romano all'inizio, e voglio proposte, voglio idee su come rimettere in piedi questo paese. Le faccio. La proposta è che ci siano dei limiti ai guadagni, cioè non è pensabile che ci sia chi come Marchiorri guadagna 1000 volte un operaio e ci sia chi non ha da mangiare. Queste sono le proposte. Grazie. Gianni da Milano, buongiorno. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Credo, vado subito al punto, credo che il male peggiore in assoluto dell'Italia sia la burocrazia. Quel signore che parlava prima, di cui non ricordo il nome, non ho sentito, diceva che la burocrazia in un qualche modo funziona. Ci sono delle eccellenze, ma questo è fisiologico, mi pare banale che non ci sia qualcuno di bravo, ma è tutta la burocrazia che noi abbiamo e subiamo, ci impedisce di crescere, perché è fonte di ricatto, è fonte di lentaggini, è fonte di buona parte dei mali dell'Italia. Quindi cambierei totalmente la burocrazia. Ed è, devo dire la verità, anche un pezzo di come in realtà siamo fatti tutti noi italiani, no Romano? Ieri c'era tra l'altro un bel pezzo di Giavazzi sul Corriere della Sera che segnalava come, no, ci sono questi grandi burocrati che alla fine sono quelli, magari ci arriveremo a dedicarci una trasmissione a questa cosa qua, perché la sensazione è abbastanza forte. Ci sono grandi burocrati che bloccano addirittura le riforme dei ministri, cioè non riescono, i ministri non riescono a portare le riforme a compimento perché ci sono i quadri, i dirigenti, quelli che scrivono le circolari, i decreti attuativi e così via, che di fatto bloccano il cambiamento. Sì, un punto quello di Giavazzi ieri, giustissimo, tra l'altro se posso fare un po' di pubblicità, anche Italia Futura aveva dedicato qualche giorno fa un tema, un editoriale a questo, ovvero al fatto che c'è un potere reale poi di questo paese, è quello dei capi di gabinetto, dei grandi funzionari, per carità, sono poteri che servono, non sono poteri di cui possiamo fare a meno, perché sono, garantiscono anche la continuità delle istituzioni, no? Ed è giusto, però è vero che se un politico, in teoria, diciamo, se un politico sbaglia torna a casa, almeno questo è quello che dovrebbe accadere, mentre invece se un capo di gabinetto in fondo fa così e così può rimanere lì quanto vuole, ed è un potere che soprattutto in Italia si è fatto molto forte. Io sono d'accordo con Giavazzi, quello è un tema sul quale certamente è necessario intervenire. E però quello che dico, Romano, è che è un pezzo di tutti noi, ecco, questo discorso di rifare l'Italia senza rifare gli italiani mi sembra quasi una velleità vedendo tutti questi esempi. Ma guardi, fino a un certo punto, perché rifare l'Italia per tornare alla sua giusta, diciamo, al suo giusto invito di fare delle proposte concrete, rifare l'Italia vuol dire anche rifare le istituzioni, non cambiare appunto ancora una volta la psicologia degli italiani. E una delle riforme secondo me indispensabili in questa legislatura sarà la riforma istituzionale, no? L'abbiamo detto in tanti, l'ha detto anche Letta, eccetera. Lì per esempio un grande cambiamento a mio parere dovrebbe essere il cambiamento verso una forma semipresidenziale di governo, ovvero una forma che rendesse, come dire, più responsabile la politica e anche riuscisse anche a incanalare questa protesta che vediamo in tante forme, grillini e non grillini, che è poi una richiesta rivolta alla politica di essere più vicina e più responsabile. Le forme semipresidenzialiste di governo sono forme per cui c'è una persona che viene votata e che non è ovviamente il padrone assoluto del paese, ma è quella con la sua coalizione nella quale poi si incarna la forma di governo. E io credo che dovremmo andare in quella direzione. Tra l'altro la rielezione di Napolitano, che come sappiamo è un'assoluta novità nella storia repubblicana, ci dice che qualcosa è cambiato nei fatti, nelle forme istituzionali di questo paese. Dobbiamo però accompagnare questa trasformazione di fatto con una trasformazione formale e quindi con una grande trasformazione istituzionale. Io oggi devo dirle, sono preoccupato dalla notizia secondo la quale la convenzione per le riforme non si farà, perché quello poteva essere uno strumento per effettivamente affrontare un grande cambiamento istituzionale, e auspico da parlamentare che il Parlamento sappia fare queste riforme. Però si tratta di fare riforme, non si tratta di auspicare un cambiamento epocale che messo così non avverrà mai, ma sarà soltanto la somma di piccoli e grandi cambiamenti. 9 in punto. Sulla nostra pagina Facebook mi scrive Valentino Angeletti, dice: avete ragione, l'Italia è da rifare, fino ad ora ci siamo abituati a vivacchiare perché tutto sommato da noi si vivacchia bene, è mancata un po' di ambizione e determinazione. Devo dire che questa lettura mi piace abbastanza. Poi torniamo a Christian Rocca, però voglio girare la questione a Ricolfi, perché poi c'è qualcosa di più profondo evidentemente che va oltre la soluzione dei problemi economici, no, naturalmente, e che riguarda la trasformazione anche sociale di questo paese. Lei come la vede? È mancato tutto questo, no? Dopo la grande esplosione ovviamente del dopoguerra, del periodo del boom economico, è come se ci fossimo un po' seduti. Il fatto che ci siano tanti proprietari di casa, che insomma, che le famiglie italiane siano mediamente molto patrimonializzate, sempre meno per carità, ma molto patrimonializzate, ha contato in questo senso? Ha contato moltissimo. Noi abbiamo avuto due transizioni consumistiche, l'ultima è terminata una decina di anni fa, e alla fine di queste due grandi transizioni noi ci troviamo un paese in cui certamente ci sono sacche di povertà, ingiustizie, problemi, cioè tutte quelle cose che la televisione un po' noiosamente ci ripropone in qualsiasi talk show, nei servizi, cui sempre più o meno le stesse situazioni drammatiche vengono descritte. Però se si guarda al paese nel suo insieme, alla famiglia tipica, noi siamo un paese non solo iperpatrimonializzato, ma in cui c'è quella che io chiamo un'eredità attesa per le nuove generazioni altissima. Se lei tiene conto anche della natalità, che in Italia è bassissima, circa 1,3-1,4, questo significa che in nessun altro paese dell'Occidente sviluppato un figlio ha un'eredità attesa alta come quella dell'italiano. E quindi in questa situazione di, diceva molto bene l'ascoltatore, in cui si vivacchia tutto sommato abbastanza bene, questo vuol dire il ceto medio continua a vivacchiare abbastanza bene e ad essere comunque la maggioranza del paese. In questa situazione la spinta non è a cambiare, la spinta è ad aggrapparsi a questa condizione di vita che tutto sommato è ancora accettabile, per questo non c'è la spinta. Cristian Rocca, lo chiedo anche a te, perché poi hai sentito che lo dicevo in apertura, la mia impressione è che certamente c'è un pezzo del paese che innova e che cresce, che abbiamo raccontato, e anche un pezzo del paese che esporta in termini economici, c'è un pezzo del paese che soffre in maniera fortissima questa crisi, e poi in realtà forse la maggioranza del paese appunto vivacchia, e la tentazione di continuare a vivacchiare è forte tutto sommato, per paura del futuro, per paura del futuro anche se vogliamo. Peraltro anche questo, diciamo, nella declinazione politica, come sai bene, non è una novità. Deceduto da pochi giorni il presidente Giulio Andreotti, e uno dei suoi slogan politici di una fase determinata della sua esperienza, lunga esperienza politica, è stata quella del tirare a campare, no? Cioè, sostanzialmente, questo purtroppo è uno dei mali del nostro paese. Però sentendo le telefonate degli ascoltatori, però torniamo sempre allo stesso punto, cioè torniamo sempre a dare la colpa a qualcun altro, a chi ha fatto le liste elettorali, a Marchionne, non mi ricordo altre, alla burocrazia. Questo mi ricorda quel titolo di un libro, diciamo, di satira militante degli anni 70 di Stefano Benni, che era "Non siamo stato noi", no? Cioè sempre a dare la colpa a qualcun altro. E in realtà, come scrive appunto Pacifico in questo numero di Il, no, siamo stato noi, nel senso noi siamo stati noi, siamo noi a far parte di questo Stato e siamo noi i responsabili. E a volte questo senso di colpa è utile, cioè anche, diciamo, la volontà di cambiamento che il Movimento 5 Stelle, come ricordavi tu poco fa, ha portato, in realtà non è una volontà di cambiamento, è sempre dare la colpa a qualcun altro. Se vuoi, secondo me è il segnale della malattia, spero dell'ultimo stadio della malattia, dove subito prima della guarigione. E non è un caso peraltro che Stefano Benni è uno degli amici e ideologi di Beppe Grillo. Non possiamo sempre dare la colpa a qualcun altro, perché poi finisce che non ci occupiamo dei problemi veri, delle cose di cui diceva Luca Ricolfi, delle cose di cui diceva Andrea Romano, non guardiamo appunto quelli che vogliono innovare, quelli che non si rassegnano, quelli che vogliono provare a cambiare le cose, e stiamo lì a contare gli scontrini della Roberta Lombardi in Parlamento, cioè occupiamoci di cose serie. Sentiamo qualche altro ascoltatore con i quali poi andiamo a chiudere, quindi vi prego di essere molto brevi. Sirio da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Dunque, io penso che l'unica possibile soluzione per cambiare questo paese qua, vista la differenza sociale ed economica che dalle Alpi a Lampedusa esiste, sia solo in chiave federale. Non c'è niente da fare, un politico deve essere responsabile del suo territorio e casomai lo si va a prenderlo per la giacchetta se combina qualche cosa, anche perché con un federalismo serio, alla stile tedesco, per dire, con i Länder, non ci sarebbe ad esempio una ragioneria di Stato, che negli ultimi 40 anni, proprio voi qualche giorno fa avete detto che il dirigente viene a guadagnare cifre veramente esorbitanti. Ci sarebbe un abbattimento, perché è facile prendersela sempre con i politici che sono diretti e responsabili, ma andiamo anche a vedere i commessi del Parlamento, quanti soldi guadagnano e con che soldi vanno in pensione, perché è veramente scandaloso che uno che mi porta un bicchiere d'acqua, un parlamentare, ragazzi, che vada a prendere 9-10 mila euro al mese, e questa è, un'offesa per gli operai. Sirio, lei ha messo insieme un po' di cose, ha fatto un ragionamento generale interessante, naturalmente su un maggior contatto diretto tramite il federalismo tra politici e appunto cittadini, mi ha citato i commessi della Camera. Beh, io non posso non dire che appunto su questo numero di Hill c'è, cioè, come abbiamo detto in apertura, questa sequenza di foto proprio sui dipendenti della Camera, che forse sono una burocrazia che veramente funziona, insomma una sorta di buon esempio in quello che dovrebbe essere appunto il palazzo della casta. Letture consigliate dunque per il fine settimana: Il in edicola oggi con Il Sole 24 Ore, che è il mensile come sapete, in edicola da oggi con Il Sole 24 Ore, e La Sfida di Luca Ricolfi. Un ringraziamento a Cristian Rocca, Andrea Romano, appunto Luca Ricolfi, chiedo scusa a Giuseppe dalla provincia di Bari, Piero D'Arecce che non siamo riusciti a far intervenire, e a tutti gli altri. Grazie Alessandro Marco Tulli in redazione, Filippo Oreggi in regia, a tutti voi per l'ascolto, buona giornata. Ricordati, mancano 52 giorni all'aumento dell'IVA. Radio 24, la passione si sente.